Ciao Gianni, ciao l'altro signore, Bruno Cantomelli, ciao Antonello. Ciao Attore. Sera Attore, Carlo da questa parte, buonasera. Sì, ok, ciao Carlo, ben sentito anche stasera. Così Antone, tutto a Cabaterra, buoni. Ma stavo dicendo Bruno, sai che Bruno non c'è qua, ciao Tom, buonasera. No, non ho cercato a Bruno l'ha giudicato, buh. Potrebbe essere prendendo i goipi, buh. Io che mi ammetto non l'ha giudicato a Bruno, l'ha giudicato a Antonello, ma pone a Cabaterra. Tu hai sentito Bruno, confermi già. Ha salutato, ha detto anche Bruno, sì, è vero. Però Antonello gli ha detto di pure a Cabaterra, lo baracchino, a chi non andava a vedere, secondo me. Sì, vabbè, una battutina, come quello che ti dice, la Basilu, sono tutte battute così, scherzose, prendiamole per quello che sono. Avanti, Carlo. Sta cercando una fotografia da mandare a Gianni dei pappagallini. Quando sono andato in Australia ne avevo una ventina sulle spalle di quelli uguali al suo, solo che c'è una miriade di foto e quindi sono col computer frugando a vedere se la trovo già. Poi te la mando così li vedi se sono uguali a quelli che hai tu. Sì, saranno i loro, se sono degli stessi colori sono i loro. Quelli lì sono nettarini, mangiano dei fiori, lì se ne trovano di fiori, sono in Australia e in Perù, la maggior parte di quei pappagalli. Sì, lo so, pappagallini nettarini, infatti gli devi dare il miele, capito, con qualche semino piccolino gli davano lì, te lo metti nella mano in un piattino, no? E te ne arrivano a decine sulla testa. Sì, ma io al posto che gli do c'è il miele, c'è nettare, ci sono avanzi di pasticceria e altra roba insieme, pezzi, semini piccoli piccoli, è già tutto composto, capito? Ho capito. Avanti Antonello, signor Tore, va da lei che Antonello forse è occupato. Altro che occupato, mi pare se ne è andato. Cazzo, ah Bru, se ne è andato Ginne. Ma dove è Bruno? Io non lo sentito. Mi sto sbagliando io, porta a gira, ci vedendo i numeri da Franco da giudizio. Mi te l'hai detto già due volte, quindi già non sono io, ho smemorato. Dore, andiamo. Vabbè dai, può succedere comunque, non problem. Riprendi qua, Claudio, quello che è passato. È in ascolto, corrisce, ascolto. Lui, Natalino, Antonio, tutti corrisci sotto. Io sono al telefono, aspetta un attimo. Vabbè, Natalino sta facendo le polpette, il sugo, e quindi occupato, perfettamente d'accordo. Ok, va bene, allora riprendi tu, Carlo. E a tutti occupati. Natali, se ci inviti a cena veniamo, e stanotte stai facendo roba buona, polpette. Sì, ma anche Aragosta sta facendo. Sì, col culo. Via. Che va via Aragosta? Cosa da restano? Palla bene, palla bene. Se lo va a fare Aragosta, stasera ce lo mettono in galera, ma si è matto, se no meglio andare a pescare i grunghi. Vabbè, ma lui preferisce le code dell'Aragosta, capito? Ah, me lo chiedo dalla cozze. Io mangio di tutto. Meglio così, Natale, perché sono così basso in radio, cazzo, sembra che ti... Sollevati appena. No. Ho capito, va. Va bene così Natalino, lascialo basso basso, già lo sentiamo comunque, il segnale è buono e la radio già va bene. Sì, perché sta parlando piano piano, capito. Fra, che radio è quella che stai usando adesso? Adesso sto utilizzando un 680K io, con MC60. Questa è bella, bella radio. Peggio quella che te l'hai messa Carlo, visto è quella radio lì. Lo so Antone, ma io devo fare il compromesso con lo spazio purtroppo. Quando ho visto le cose, le misure, ho detto non ci entra, come la metto questa? Non ha capito, non è troppo grande. Allora aspetterò qualche altra radio, qualche altra buona cosa. occasione, capito? Lo so che era bella quella e il corto era anche ottimo, però capito, è quello, non l'ho presa per quel motivo lì, troppo spaziosa. Ma dove pigliarlo a volo immediatamente? Poi ci avevamo messo d'accordo, non ti preoccupare, l'avevo presa io al limite. Aspetta un attimo, voglio al telefono, 2 minuti. Via, fai pure Antone, già siamo qua. Adesso rilanciamo Gianni. E un attimo che sto mandando una cosa. Sì, va bene. Avanti Franco. La radio sì. Ma Franco. Ho detto che è una bella radio questa, niente da dire, funziona perfettamente bene, benissimo. Questa era di Claudio. Bella radio proprio, si sente poi la voce bella, chiara, capito, potente, però sì, segnale. Vabbè, tu da che zona stai modulando, Fra? Ricordamelo. Io sono Monte Rosello Alto. Quindi va bene, in linea d'aria non siamo distanti, perché praticamente fa il Ponte Nuovo e siamo lì, capito, poca roba di distanza. Infatti, diciamo che siamo vicini, dai, in linea d'aria siamo vicinissimi. Sì, sì, questa c'è un mediani, E lo immagino, forse c'è qualcuno sotto, sento, io ho lo squelch alto, ma adesso ho sentito qualcosina, non so se c'è qualcuno sotto. Ma mi sa che no, io non sento nulla, sento soltanto tutto pulito pulito, gli ho eliminati. Propagazione, sicuramente c'è propagazione, ecco. Riprendi tu, io, raccontaci qualcosa. Cosa vuoi che ti racconta? A proposito, che radio è? Bella, tipo questa che ho io. Questo qua è il 680, con l'MC60. Quella che c'è tu? Ma questa sto usando adesso. Oh, quella che stavano dicendo. Il 140 forse, così è Carlo. Sì, sì, il Kenwood. Ah no, ce l'ho. Ce l'ho quello io. Sì, lo sto usando adesso. Se ti piace, guarda un po'. Sì, no, già come radio la conosco, sì, perché ne avevamo parlato con Antonello. E che lui, frugando su internet, mi aveva mandato il link perché era un prezzo, insomma, abbordabile. La radio sembrava in ottimo stato, però poi ho guardato le dimensioni e io la devo piazzare dentro, diciamo, uno spazio che ho, e quindi quella era troppo larga di poco, ma purtroppo non c'entrava, e quindi alla fine l'avrei dovuta mettere troppo in alto e non l'avrei neanche sfruttata, capito? Aspetterò un'altra occasione, qualche altra radio più compatta, e quando sarà una buona occasione la prendo anche io. Queste sono un pochino larghe, sono una cosa che c'è tu non entrava. Oh, io ce l'ho su un palchetto, sono fatto un palchetto io per metterlo. Ma dice che la stavi vendendo, non so, la radio. Fissa? Ui, non è questa, ce l'avevo, l'ho venduta, sino... Non mi piace, è troppo complicata, Ira. Ce l'avevo comunque. Ma tanto tempo fa l'ho venduta. Ma c'avevi il 440? No, era della Yaesu, ma era troppo complicata. Cioè che se sbagliavi andavi fuori frequenza, invece andava un bel di volte fuori frequenza. Ah, ho capito. Sì, in definitiva queste sono dei muletti, Carlo, capito? Non muoiono mai. Lo so, belle radio, sì, però ripeto, se avessi avuto una stanza dedicata, che purtroppo non ho, allora sì, più di una ne avrei tenuto, capito? Però come sono sistemato io, diciamo, la posizione è comoda perché sono in cucina e capito, e c'ho cucina soggiorno, ma sto lì tranquillo, se voglio bermi qualcosa, parlare alla radio, ci sto quanto voglio. Però lo spazio è limitato, capito? Beh, se non ci sta una cosa, va bene. No, io ce l'ho sul tavolo qua, capito? L'ho messa qua. Ce l'avevo un bel tempo ferma, l'ho accesa giusto per farla funzionare ogni tanto, perché altrimenti si rovina. Sì, no, quello è importante, farle girare un pochettino, se ne è più di una di radio, soprattutto se sono radio buone come quelle, meglio che lavorino ogni tanto, capito? E soprattutto d'inverno, capito? l'umidità, il freddo, eccetera, se li accendi male non gli fa, anzi penso che gli faccia anche bene. D'estate magari col caldo già le puoi tenere anche più a riposo, capito? Magari ne preferisci un'altra più pratica d'estate, usi quella. E questo non è mai fatti, infatti è così. Fitto, infatti adesso non se ne trovano più di queste radio qua in commercio, non le ho più visto. Anzi, ho visto una linea di 4,40, tutta la linea completa, mi sa 580 euro. Dal telefono l'hai vista? No, negativo, l'ho vista sul sito Radio Maturi, ed era in vendita. Tutta la linea completa oppure dava anche a pezzi separati. L'ho trovata anch'io quella lì, 580 euro, tutta completa. L'ho trovata anch'io, cioè il sito di Radio Maturi. No, è così, sì. No, già se ne trovano. No, non quei, no, i 140. Ce n'era uno settimana scorsa, ma è pari due subito. Ecco. 146,80 è ancora più raro a trovarlo. E infatti io nella Zichen ho un 680, leo Zichen, ma non si ne acciappa, ho chiesto a un amico e non riesce a trovarne. È un casino. Purtroppo chi ce li ha queste radio se le tiene, capito? E il 440 ne trovi a Uffa. E a chi di fiducia? Già, non lo so, però quella linea lì l'ho vista, è bella, è tenuta proprio bene, tutta completa, tutto, c'era tutto, MC60, colonnina, alimentatore, tutta la linea stava dando, 580 euro trattabili. Tu hai spinto, io no? No, me ne faccio niente, già, se me l'avrei preso, ma cosa me ne faccio? Cioè, non mi serve a niente a me, io ce li ho, cosa me ne faccio? Io l'ho fatta, te l'ho fatta, ci avevi soldi pronti a darti. Invece non me l'hai dato. Ma io questa non la do a nessuno, capito? Sì, dal giorno che ti stufi quella dallo stesso. Come facevo io? Cioè non la do a nessuno, poi mi stufavo e cambiavo. Avanti Carlo. Sì, sono al computer frugando con le foto. Ne ho trovato qualcuna, sì, uguali ai tuoi sono, già, poi te la mando una e così te lo guardi. Niente, là animali ce ne sono di tutti i tipi, siamo andati anche in Queensland sulla barriera corallina e abbiamo visto le megattere, le balene proprio vicino, passavano vicino all'imbarcazione nostra, no? Perché là prendi le imbarcazioni e ti portano al largo dove ci sono le balene, giocano, passano vicino alla barca, una figata, pipistrelli giganti, cosa tutto non ho visto, i serpenti di tutti i tipi, coccodrilli, e poi siamo andati anche nel nord dell'Australia, no? Nei territori del nord, lì è tutto paludi, coccodrilli di quelli enormi, capito? Ma li vedi da lontano perché sono pericolosi, capito? E a digridersi, avvicinati. Poi il coccodrillo è maledetto, si nasconde, si camuffa e poi di colpo attacca. E non c'è scampo. E fate le immersioni. Qualche immersione l'ho fatta, purtroppo breve, perché l'amante delle immersioni sono solo io in famiglia, capito? Gli altri sono un po' resti all'acqua. E quindi ne ho fatto una nella barriera corallina di una mezz'ora, capito? Però senza bombole, capito? Dalla superficie scendevo magari tipo 5-6 metri sotto, perché ci hanno dato la cinghia con i piombi per avere più facilità, però più di quello ci avevano raccomandato di non scendere, c'erano squaletti di barriera da vedere, un sacco di roba. Poi la cosa più bella era Fraser Island, è praticamente un'isola grande fatta solo di sabbia, al centro c'è una piccola foresta e lì ci sono i dingo, però sono dei dingo che sono arrivati lì diciamo nuotando, capito? Perché un'isola è staccata dal territorio australiano, no? E c'è una colonia grande di dingo e tu li devi vedere, scavano e tirano le cozze dalla sabbia, dalla spiaggia, capito? Sono pericolosi, se hai bambini piccoli eccetera, perché vanno in branco e quindi noi eravamo col fuoristrada lì e ci avevano raccomandato di non isolarci, di stare sempre tutti in in gruppo, perché a volte attaccano anche le persone, sono cani selvatici australiani, capito? E sono maledetti perché attaccano in gruppo. E in Australia c'è degli animali pericolosi. Sì. Io ho un amico che è andato lì nella barriera corallina e ha poi fatto fare il filmino, c'era un operatore che ti faceva fare il filmino, glielo pagavi quando andavi via, ti faceva il filmino sott'acqua e lui si è fatto il filmino a fianco a uno squalo, proprio vicino attaccato, lo squalo sotto e lui sopra. Ho capito, sì. Là c'erano le escursioni, immersioni, quelle più pericolose, diciamo, però già ti fanno scendere anche con la gabbia se vuoi, solo che costavano un sacco di soldi pure. Con i miei dice, ma lascia perdere, andiamo a vedere altro, perché da vedere ne hai tanto, là è una cosa immensa l'Australia, pensa che due volte l'Europa come estensione di territorio, per andare da uno stato all'altro o impieghi 3 giorni di treno oppure devi prendere l'aereo, fai 3-4 ore di volo, capito? Per andare da Sydney a Brisbane erano 4 ore di volo, se no impiegavi 2 giorni col treno. Io c'avevo un amico che era australiano, Anthony si chiamava, cioè si chiama tuttora, solo che sono venuti qua a Sassari, il padre era sardo, e sono venuti qua a Sassari, aveva aperto un bar che era una miniera, guadagnavano un sacco di soldi, più lo lasciavano aperto più guadagnavano. E praticamente era questo bar in quel vicolo che c'è di fronte alle carceri, c'era presente, era lì. Guadagnavano un sacco di soldi, poi il padre poi si è stufato, gli piaceva più l'Australia e se ne è ritornato di nuovo là. E le figlie intanto ci avevano ragazzo qua, tutto quanto, hanno dovuto mollare tutto quanto e andare col padre. Cioè ci avevano già fatto la vita qua. C'era stato di capo e se n'è andato di nuovo in Australia, perché c'è che si stava meglio. Sì, sicuramente si sta meglio di qua, no? Dal punto di vista degli stipendi sono belli alti e si vive anche meglio, la carne è buona. E ad agosto parte mia figlia per un anno adesso in Australia e mia moglie ci ha vissuto per un anno lì lo stesso quando era ragazza, aveva fatto la studentessa di scambio ed era andata a finire anche lì nel Queensland, però in una diciamo a 50 km da Brisbane, in una penisola, c'era un piccolo paese, c'era la scuola lì e ci è rimasta un anno. Adesso mia figlia ha vinto la borsa di studio e parte ad agosto e ritorna a luglio del prossimo anno, capito? Ah, capo. E quindi è grande tua figlia? Sì, compie 17 anni quando parte. I 18 anni li compirà là, capito? Mio figlio invece è stato un anno negli Stati Uniti, lui è stato nel Missouri, però è andato a visitare il Maine, è andato a New York, sempre con una famiglia, capito? E poi la famiglia che l'ha ospitato per un anno sono venuti qua da noi, ci sono stati una ventina di giorni, li abbiamo portati in giro, li abbiamo portati a Suburropu e sono rimasti entusiasti, l'anno dopo è venuto il figlio. Casa nostra sembra sempre un albergo, capito? Ne abbiamo di tutte le nazionalità. Poi abbiamo avuto a casa una studentessa della Malesia per un anno, capito? E poi mia moglie e mia figlia sono andati là perché si è sposato un fratello di questa ragazza che abbiamo ospitato e quindi li hanno invitati e avevano invitato anche me, ma io non mi davano ferie in quel periodo, per cui non ci sono potuto andare, se no anche la Malesia è molto bella. Mia moglie e mia figlia ci sono state, però adesso poi è iniziata la pandemia e non ci siamo più mossi da nessuna parte, siamo 3 anni inchiodati, capito? E tu dove sei andato di quello fuori? Sono ritornato io. Anzi, riprendi, dai. Comunque ti volevo mandare la fotografia di pappagalli facendosi il bagno. Quando è tornato ci ha fatto subito il bagno, Roberto. Che bellino che... Troia, mamma mia, mi ha fatto una baciata di maccarrone, una rete di misericidi. Ho fatto questo sughetto, cazzo, che è la fine del mondo. Brava, brava, anche io li faccio, quelli della capitanese, faccio il suo con la salsiccia affumicata, che è un bel buono, la prendo al centro cane, lì è molto buono. Sugo così e poi ci vuole formaggio sardo grattugiato sopra ed è una sciccheria. No, io ho fatto il così, spaghetti a ragù ho fatto, però il sugo l'ho fatto io questa volta con chi sa fare che io lo diamo dritta su, lo dritta bagna, io so, con la mano che ho tratto l'ho fatto proprio come una volta con i pelati, ma ti dirò che è tutta un'altra cosa fatta con i pelati. Oh, che buono che è uscito, buon areddo. Qua io uso la torella e bottiglia, non sbagli, è un sugo dolce, non è acido, non devi aggiungere né zucchero né niente, io lo faccio con quello e mi trovo molto bene. Poi non so tu che cosa usi come sugo, però è buono, anche con le bottiglie è molto buono. Antonella, Antonella Casar, però ti dico la verità, si è buono anche con le bottiglie, però fatto manualmente, è un altro pianeta, mi dispiace, ma cazzo, buon arido uscito. Io non so da quando non lo uso il passapomodori, prima li prendevo, ma ti devi aprire la scatola, il tutugato, oh marcello, tante volte mi sono tagliato anche il dito, alzando il coperchio, io mi sono tagliato il dito, ho detto mamma se non andano a male, prendo quelli già pronti, già vaccinati e via, avanti cazzo. Mamma mi state facendo venire adesso, che ancora è presto, qua 7:20. Ehi vabbè, così mangi con più gusto. Beh, un bel piatto di maccarrone come quelli di Antonio me l'avrei mangiato anch'io volentieri adesso. Mi ho fatto la foto, mi se c'è il numero di Carlo gliela passi, mi cazzarola, una rete di suicidi, cazzo già. Ecco qua. Ma così non vale, vale, non riputivo maniaco uscì in foto. E poi io come formaggio non uso il Gran Padano, io l'ho provato, ma uso il Gran Campidano che è molto buono, nemmeno non ha le stesse forme, capito? Non è forme così grandi, ma è buono davvero questo gaggio. È fatto con latte sardo, arboreame. Capito? Sì, me l'avevi detto tu, sì, ho capito. Ma io uso anche quello formaggio sardo, di quello piccante, di quello. Io ho trovato un pastore che me l'ha dato una volta, questo formaggio era favoloso, e adesso si è induito un po' e lo stavo grattugiando. Fatto bene. Io sto usando quello dell'arborea, cazzo, è veramente buono, Ma manco vicino a Guido. Cioè, c'è il sapore, cioè, io l'ho provato, un giorno non ce l'avevo, l'ho preso una bustina, l'ho provato quello là, che siccome sono sempre abituato a mangiare quello, non ti indiene su sapore, e di te ne faccio come niente, no? Scusa un attimo. Avanti Carlo. Una cosa, Anto, com'è questo formaggio che mai è di mucca? È il formaggio, però allora, Gran Campidano, l'hai mai sentito? Lo vendono anche, qua c'è una salumeria di via Mosca che ce l'ha in forma grande, te lo grattugia pure. Ma che buono, che. No, no, no, perché già mi interessa, a me mi avevano consigliato quel granglona di Nulvi, però è formaggio di pecora, i miei figli l'hanno assaggiato e non gli piace, che loro sono abituati al grana, no? Però se tu mi dici che questo Gran Campidano così è formaggio di arborea, dovrebbe essere di mucca, capito? Quindi immagino che sia buono, adesso lo cerco, dove lo trovi tu? Lo prendo anche con De Santa Maria, ho preso il pacco grande. Mi vai sul sito e scrivi Gran Campidano e te lo dà. Cioè praticamente sono le forme come Granna Padano lo vendono in forme così grandi, lo vendono. Però è fatto con latte saldo, con latte sardo, capito? Ed è molto più saporito. Già lo cerco, già ci vado lì a Corte Santa Maria, tanto ci passo spesso in quella zona, e poco mi costa, mi fermo e me lo cerco, lo voglio provare. È dell'Arborea, è di un formaggio di mucca, cioè è uguale com'è, però è molto più buono, molto più saporito. Wow, veramente, tutto il sapore si intende, che Luca è buono. E poi c'è la salumeria che c'è in via Mosca, lo vende, loro ce l'hanno a forme così grandi, come il Grana Padano, con forme grandi, lo tagliano e lo grattano nella col cantoni voi, a 11,50 mi pare, al chilo forse. Io ogni tanto me ne faccio una bella cosa, capito? Una bella confezione, è buono, che è buono. Sì, sì, lo voglio provare, mi ha incuriosito, e se è formaggio di vacca che ho fatto con latte sardo, penso che già sia anche bello saporito, capito? Lo cerco e lo provo, poi ti faccio sapere, Anto. Io uso sempre quello, uso. Io se lo trovo me lo prendo a pezzo, poi già me lo gratto giù io, perché noi facciamo sempre così, prendiamo il grana a pezzi, capito, e poi ce lo grattugiamo noi. C'è anche a Corte Santa Maria, c'è quello lì a pezzi. Allora devi guardare dove mettono i formaggi lungo a lungo, da lo trovi, c'è proprio il pezzo. Poi te lo vendono pure lì dove ti ho detto, te lo vendono a pezzi lo stesso, ma buonare due. Io lo preferisco, la verità lo preferisco, già c'è a pezzi, già se c'è la grattugia c'è. Ehi, Gianni mi ha mandato la pasta asciutta tua, però era un fondo del piatto che l'ha mandato. Cosa è? Ho detto, Gianni mi ha mandato la foto del tuo piatto di pasta asciutta, ho detto, il fondo però hai lasciato. Eh sì, il fondo non c'è più, è nel tuo stomaco, eh. Avanti, Gianni. Oh, io mi metto a cassare la dieta, tutti mangiando, roghi. Io mangio più tardi. Io lo stesso, adesso mi metto a preparare qualcosa, dai. E rimango in ascolto, se mi date qualche attimo riprendo tra 5-10 minuti e ci sentiamo più tardi. E io poi alle 8 scendo, non lo so che ore sia. Alle 8 scendo giù col cane. Sì, no, va, perché voglio preparare qualcosa anch'io per cena, se no poi mi ha fatto venire fame Antonio parlando di pasta asciutta. Quando le cose sono fatte bene sempre bisogna dargli tanto di cappello. Ma lo credo, già lo credo. Grappa, oggi non mi sto usando quello molto buono, sto usando quello Kerchi, lo conoscete, sì. Che cosa? L'olio d'oliva. Secchi. Kerchi. No, non lo conosco. A me piace quello di Alghero, quello San Giuliano. Prova che so, vedi. A me se è buono. Sì, anche San Giuliano non è male. Mi pare che lo pago roba di 7 euro al litro. Lo pago 7 euro e 50 al litro. Quello che è? Sì, però io ne prendo una. Allora, quello là mi pare che me lo lascia. Adesso non so se è aumentato. Me lo lascia 35 euro, 5 litri. Già è caduccio. Così trovo l'olio. L'olio di proprietà, il prezzo di A quel prezzo trovo l'olio di proprietà. Ed è un bel buono. È un amico mio, me lo dà a 7 euro. È Verdone quello che sto prendendo io, Non è di chi si. Capito? È di chi su buono, è tipo proprietà, è proprio buono, te lo sto dicendo. Bravo, sì, adesso arrivo. Scappa. E vabbè, quello che vede quel mio amico lo stesso è di bancali, e lo rimetto a bancali. Sì, no, io voglio prendere una canica da 5 litri, e adesso ce l'hanno, sì, sì, ce l'hanno la produzione dell'olio, ma ti dico che è ottimo, lo vendono così perché tipo proprietà, sono quelli del bar di mia Tempio, il Crespar, sono loro, sono, sto arrivando! Andiamo da Cosa c'è? No, scappa, dai già, ti devo lasciare che ok, ci sentiamo. Va bene, anche tu fai quello che devi fare, dai, dai. Oggi è sabato, dovrei andare in girella, no? Già lo so, vado. Ok, ciao ciao. Ciao Antonio, ciao Gianni, mentre ci sentiamo dopo, io sono occupato un attimino. Carlo, Carlo si è allontanato da te a cucinare, non c'è più nessuno. Già, ci sentiamo più tardi, già, se ci sei, ho salutato Antonio, niente, perché sono occupato un attimino e riprendo tra un po' se c'è qualcuno, dai, comunque sono in ascolto. Vediamo se c'è Franco. Mi avete abbandonato, carogne. Dore, ci sì, sì. Prova, attenzione, canale 10, cambio. Di trovarlo, così almeno il sistema è a posto, però la trasmissione è a posto, il ricettore lo sento a tutti, solo che se tu sei 9 segna 7, hai capito? Sì, vabbè, quello poco male. Stavo cercando di usare ho provato un Zodiac che avevamo lavorato un tempo fa, il microfono suo esce l'importante e basta, ho messo un microfono CTE ed esce bene il radio, sicuramente voi sentivate la carta, sulla bocca di Roma Vecchia. E la capsula si è calata, futtidini. E come posso sbloccarla? Nulla. Si va avanti e aspetti di trovare una nuova. Ti do la fortuna di trovare il microfono normale, perché il Torino non è neanche uno, quindi fu usato per tanto, quindi a meno che non usi il microfono amplificato. Ma è una radio che utilizzo e invece perché l'ho mudata e anche un internet che usava, non so se ti ricordi, il marito di Vacca, là in la campagna, un internet 34 canali che però sino a 20, sino a 25 funziona canali normali, dal 26 in poi sono canali alti. No, sono canali di sotto, quindi. Per lo meno di sotto, non lo so, adesso non mi ricordo. Ma te lo sto dicendo io però. Comunque per la capsula di quel baracchino lì, prendi una capsula di telefono e ce la metti dentro, di quello di poco fa che sei parlato tu. Ma di che telefono? Il telefono di quel modello vecchio, ce l'hai presente, di quelle capsule di telefono, di videocitofono, quello che è. Ce la metti a posto della capsula normale, funziona. Ah sì, ce l'ho anche, guarda, non mi interessa ancora, niente vuole fare queste cose qua. Mi hai chiesto cosa metterci, a un certo punto ti ho detto, mi è venuto in mente adesso, una capsula di telefono, e va bene lo stesso. E sei tranquillo, me lo esce. Ehi, va bene, grazie. No, scusa, anche altri di microfono, niente, cambio di connessione a uno, è una radio che non so da utilizzare così, giusto per, come si dice, per collezione. Beh, ho capito. Quindi già ti va bene lo stesso. Anda bene. Fate le salsicce, sì. No, per dire la verità no, perché... Lascia vedere, una finita. No, perché non c'è caldo, non fa. Pensavo che facciamo salsicce, più che altro. È passato il tempo. C'è una possibilità di poterlo, fare, perché ci metto il condizionatore in funzione all'interno, ma alla fine poi non avrò una candela, capito? Perché devo stare fresco, quindi io per contare le chiavi tipo c'è da frigo, basta che metto un pinguino di lunghi per dire lì in funzione, ma deve stare sempre acceso, oppure non deve far calare con la temperatura. Non mi interessa, già ne ho sotto vuoto, voglia, per casa basta. Ah, voglia, meglio così, sono contento anch'io, guarda. Come ascolti i dati, il segnale, buono, sì? Sì, aspetta che c'è un cane che mi sta salendo in braccio, e non è più piccolo come una volta, no? Sì, aspetta un attimo. Ciucucciu. Poi, fatto bene che si vuole in braccio, ma adesso pesa più di 45 kg. No, caro, ma tu sei matto, sei cazzo. No, sei... No. Quello che c'ho lì già basta come cane. A me l'unica cosa mi sembrerebbe, guarda, adesso, ti pare fa 5-6 anni, ti pido una femminuccia grande, in modo che... faccia come voleva fare e poi se la prende in culo il cane. No, vabbè, questo l'ho sempre avuto io, una razza del genere. Adesso ce l'ho, ogni tanto quando sono alla radio viene, c'è quelli che avvicina a me, vuole stare vicino a me, capito? Se adesso è in piedi, io sono col braccio appeso perché lui ci vuole in braccio, è pesante. Cazzo, ci vuole in braccio, proprio che pesa poco poi, no, il mio è ci vuole in braccio, ma io lo pido in braccio davvero perché pesa poco, pesa da 3 kg, 3 kg e mezzo. Ma di questo pesa così? Poi il mio lo metto il musetto a fianco al collo, sembra un bambino piccolo, sembra, hai capito? Poi vabbè, quando adesso, l'ho letto io, l'ho fatto che sei adesso, quando ho detto poi entra all'interno, mette il campo migliore, il musetto e dorme. Come un bambino piccolo, tale uguale. Già ti faccio una foto uno di questi giorni. Sì, già lo so, quello marrone, già lo so. Aspetta che c'è Cristian. Cristian, no, questi qua, quelli li fanno per da lui, per i croccantini. Dove fare? Scusate che sto cucinando il riso, vai, già le prendo fra un po'. Cucina, cucina. Un po' di riso, un po' di carne macinata, qualche muser, tira gamba. Sì, fa un cane, barone, non fa a me. Sì, ma non mai io mangio queste cose così sulle piante. Sì, insomma, almeno ci piove, la spesa è aumentata, quindi. No, giusto per stamattina ho fatto due cose, come solitamente faccio, mi sono guardato di più a prendere, insomma, una cassetta di birra in più e ho una bottiglia di birra di Mirko, ho uscito il conto 220 euro. L'ho bevuto, non è che ne vado matto. Mi piace più Mirko, il nocciolino, come si chiama, il cioccolato, quello al pistacchio, insomma, queste cose così, quelle non sono dolci, ma aspetta, devo girare, dopo. Fai con come lo fai, non c'è problema. Eccomi, eccomi, Antonello. Antonio! Questo ci lascia. Fate la pappa al cucciolo. No, ancora no, sta cucinando, sta cucinando. Beh, cucciolo, insomma, dai, diciamo un cucciolo, dai. Sì, ha 11 mesi, ha fatto l'11 mese oggi. È un cuccioletto, dai, di 50 kg. vabbè, dai. Va bene, va bene, è molto protettivo, Lasciamo anche il grosso in ora, ce ne freghiamo, o no? Così è. E i cani ci proteggono lo stesso, vabbè, il mio gatto è ultra protettivo com'è. Cos'è? Che il mio gatto com'è è ultra protettivo. Ah sì? Sì, ma che mi tocchi. Vabbè, ma gli animali già se ne accorgono. Voi trattate bene, poi si affezionano anche loro. Io sono suo papà e dorme come nel letto, mangia ogni settimana una roba diversa. Anche io esatto, ma cioè io ho preso un po' di carne per me e un po' per loro, ma là tutto l'interiore di un animale vero e l'ho tutto selezionato, io non ho mangiato solo carne, ma magnato un animo, certo, cuore, fegato, polmone, ne avevo un po' di roba. Mi fa bene la carne, gli fa benissimo, ma te sei accorto? Sì, stavo facendo arrosto, l'ho fatto arrosto anche a loro. Ma se c'è ancora la tala per mangiare, ci dai crudo, cazzo, cioè che non lo rovini e basta. Sì, un pochettino gli ho giocato anche il crudo, perché la vipa, il fegato, la mamma che muore quando è crudo, tanto vuole cotto poco. Ma la volta due va bene, ma sempre poi il cane si abitua a essere aggressivo. Se mo si cade, il cane non attacca sangue, addio. Non lascia perdere. Allora il cane sei dolce, affettuoso, coccolone. Deve difendere il suo territorio. Esatto, deve difendere il suo bel pezzo del terreno e deve difendere i vostri padroni. Allora, ce la va bene. E questo è un inverter, sì. E scendo un cristiano. Un inverter 130 euro, no? L'ho pagato 145, è nuovo, c'ho il doppione praticamente perché l'ho preso uno per casa e uno per il camper, però in casa non va bene, quindi lo stavo vendendo. Questo mi ha scritto per 120 euro, se capita un ristrano lo prendo io, ma secondo te devo andare a ristrano a portarlo? Se io non è Dio ristrano, non può scendere. No, taglio loro. E chi è il tipo? Ma sapete, ma secondo te li prendo, glielo porto pure. Già mi ha abbassato il prezzo, glielo porto pure. E come no, io non sono ristrano, non è tipo, l'ho visitato Pinica, da Gemini. Non l'avevi detto. E grazie a Dio sono stato facendo una visita, lunedì vado e faccio controllare, vedere cosa si sto cacchio di gamba che sta martoriando. Io sono dimagrito abbastanza, però deve essere che prendo pesi, lo so tanto, il muscolo sicuramente è lo infiammato, ma la grande pure. Non basta. Ho dato il punture del medico, ho fatto le punture, ma non me ne ho fatto nulla. Adesso il mio medico mi ha dato visione e qualcos'altro, va so bene. Sì. Antibiotico, ma di quelli a livelli allora, di quelli si può dire Toradol, roba così, ma non lo so, speriamo che insomma faccia effetto, adesso vediamo quindi il medico già mi dice, poi adesso vediamo cosa poi vado al mio medico di base, mi dà qualcosa per lui e bene o male, come la volta scorsa, ho fatto la cura del dolore specifica e ho creato senza problemi. Certo. Prima qui, devo andare a girare la volta ci sono, sono si brucia. Ok. Vai, gira, va. Beh, ci sentiamo più tardi. Dai, Antone, niente, guarda, ti hai salutato se ci sei sparito.